Qualche contestazione rumorosa, per usare un eufemismo. Ricordate Luca Casarini, il no global? Adesso fa l'imprenditore. È una delle tante partite IVA del Nord-Est. Quando parla, scrive Michele Brambilla, Casarini parla come la Marcegaglia. Un'imposta, l'IRAP, che colpisce la produzione, è un'imposta assurda. Quando parla delle banche, parla come Tremonti. L'accesso al credito dovrebbe essere agevolato. Quando parla del centralismo dello Stato, parla come Bossi. C'è una forte richiesta di autonomia da parte della nostra gente. Insomma, Luca Casarini, intervistato, ha aperto una partita IVA. Si rende conto che diranno che è passato dall'altra parte, ma no, non è vero, dice Casarini, io sono sempre stato dalla parte degli sfruttati e i nuovi sfruttati sono i piccoli imprenditori, gli artigiani. Per esempio, l'IRAP è una vergogna, per esempio, specie in periodo di crisi, viene tassata la produzione e non il reddito. E poi le banche. Ma sono i rischi di impresa, lei se ne rende conto? Ma io ho sempre pensato che i piccoli imprenditori erano vessati, dice Casarini. Sta pensando di passare alla Lega, per carità, non crederà che la Lega tuteli le piccole imprese. E insomma, è un Casarini, come dire, nuovo? Rinnovato? Chi lo sa? Ci dobbiamo fermare qui, l'ultima segnalazione la voglio fare dal giornale, in prima pagina. Il giornale racconta la visita che Mario Balotelli, Super Mario Balotelli dell'Inter, ha fatto a un istituto, l'Istituto Don Gnocchi, a incontrare bambini che hanno disabilità motorie. E, il titolo però è abbastanza emblematico. Balotelli si confida coi bimbi, ha risposto a qualche domanda e sapete che ha detto a un bambino? Io sono un tifoso del Milan. È un bambino che gli ha chiesto, ma scusa, perché giochi nell'Inter? Per quest'anno gioco nell'Inter. Questa è la risposta di Mario Balotelli. Vabbè, io, se vuole venire al Milan, Mario Balotelli, porte apertissime. Venga, venga. Eccoci qua, il sondaggio. Andreste il 5 dicembre al Berlusconi Day, al no Berlusconi Day, entrambe a Roma o da nessuna parte. Votate su Radio24.it o Sole24ore.com. Soldi e dintorni. Eccoci qui con Deborah Rosciani. Carissimo, buongiorno. Ben trovata. Grazie. Sempre in grande forma. Insomma, stamattina diciamo l'apparato respiratorio sta andando a farsi benedire. È cominciato dall'apparato stoicamente reggo, sono qua e ti osservo mentre lavori e mentre ti sfuggono i giornali come anguille. Vabbè, sì, prima disavventura trovavo, da pescatore stamattina. Non ne trovavo uno in rassegna stampa. E che cosa vuoi sfuggono fare? Come scappano anguille, via, sono così con le gambine. Allora. Questa di questa mattina è molto carina. Che di cosa? Di notizia. Ah, ecco appunto, andiamo. Allora, sicuramente gli ascoltatori hanno sentito la controcopertina curata dalla collega Maria Luisa Pezzali poco fa, ne ha già parlato, abbiamo rubato il suo lavoro per approfondire una notizia che ci è sembrata piuttosto interessante. In realtà non è del tutto una novità, perché abbiamo scoperto in passato che ci sono state iniziative di alcuni ordini professionali che si stanno muovendo per venire incontro alle mutate esigenze familiari a causa della crisi economica. Ad esempio, qualche mese fa abbiamo parlato dell'iniziativa dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani che ha firmato un accordo col Ministero della Salute per garantire prestazioni dentistiche a prezzi calmierati per le fasce più deboli. L'iniziativa dell'Ordine degli Avvocati di Monza e della Brianza è qualcosa di diverso, ma in sostanza in che cosa si concretizza? Nella possibilità di accedere all'assistenza legale se non si riesce a pagarla, eventualmente pagandola. A rate, buongiorno al presidente dell'ordine, l'avvocato Attilio Carlo Villa. Presidente, buongiorno, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno. Allora, avete stipulato questo accordo, lo raccontava Maria Luisa Pezzali con Banca Carige, per prevedere appunto delle facilitazioni per i clienti, per i vostri clienti, per il pagamento delle parcelle. In sostanza, prestiti veri e propri. Come ci siete arrivati a questa iniziativa, avvocato? Cioè, sembra abbastanza banale dire che ovviamente c'è la crisi finanziaria, che le famiglie non sono in grado di far fronte a tutti gli impegni. Però, insomma, è un'iniziativa davvero rivoluzionaria per quello che riguarda un ordine professionale. Sì, ma intanto bisognerebbe cominciare a ragionare in ordine al tipo di clientela che all'interno del Tribunale di Monza si trova. Perché si trovano grandi piccole imprese, si trovano medie imprese, artigiani e quindi una clientela che comunque ha un'attività che non è semplicemente un'attività in crisi, ma è un'attività che si spera poi nel futuro possa ripartire. L'iniziativa che noi abbiamo preso è sostanzialmente una delle tante iniziative che servono per riuscire in qualche maniera a, da un lato, riavvicinare ai legali la clientela e dall'altro quello di consentire appunto il pagamento. Abbiamo trovato un istituto convenzionato che ci ha consentito di fare una sorta di credito al consumo, vincolato non già al pagamento di una fattura per una fornitura di beni, quanto al pagamento di una fattura che in qualche maniera viene vidimata e asseverata da parte del Consiglio dell'Ordine come esternazione corretta del dovuto al cliente, del dovuto da parte del cliente all'avvocato, che viene presentata assieme ai documenti normali del credito al consumo per ottenere il prestito che serve per il pagamento della parcella. Da quello che capisco, l'importo finanziabile andrà da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 10.000. Il finanziamento potrà avere durata dai 6 mesi ai 48 mesi. Quale sarà la procedura? Sostanzialmente, un artigiano viene da voi, vi chiede assistenza per una questione che evidentemente deve sistemare, in sostanza, che deve gestire. Voi gli fate un preventivo, con quella cifra il cliente va dalla finanziaria e gli dice: questo è quanto mi serve, e se poi si scopre che serve no, un po' di non più proprio. No, esattamente il momento in cui verrà l'erogazione del prestito è un momento decisamente successivo, cioè il cliente viene da noi sapendo che sulla base eventualmente di un preventivo la somma potrebbe rientrare nell'ambito di quel range di cifre che lei ha indicato. E quando sarà il momento invece del pagamento definitivo, perché l'attività professionale si è conclusa, allora è quello il momento nel quale poi si potrà andare all'istituto convenzionato per chiedere il prestito secondo le modalità normali di un prestito al consumo. Allora i clienti sì. Ed è in quel momento che il collega presenta la parcella non solo al cliente, ma ove si ritenga di dover accedere a questo tipo di servizio, ci consegnerà la parcella che noi videremo sulla scorta delle indicazioni dell'attività svolta e confronteremo che sia congrua in relazione al tariffario che è previsto per gli avvocati. I tassi su questi prestiti, avvocato, sono i tassi di mercato? Siete riusciti a spuntare delle condizioni migliori? No, direi che tendenzialmente sono i tassi del mercato con qualche percentuale di spread inferiore. Direi che questa, proprio perché è un progetto pilota, andrà poi rivalutato, nel senso che noi non siamo in grado di sapere in questo momento quale sia il carico di affari che poi la banca potrà mettere in pista. Quindi ovviamente in questo momento siamo stati prudenziali con la banca. Se poi il numero degli accessi a questo tipo di servizio saranno di un certo numero, evidentemente cercheremo di trattare in maniera più favorevole per i clienti. Lei ci ha già detto idealmente quella che potrebbe essere la clientela che potrà approfittare di questa iniziativa. Vi sono già state inoltrate delle richieste di informazioni, avvocato? C'è già potenzialmente una clientela? No, non ancora, perché ovviamente la definizione della convenzione con la banca è stata di circa 10 giorni fa e quindi ancora materialmente non è possibile. Allora, avvocato, io ovviamente adesso non posso non provocarla un po', no? Un mutuo per pagare l'avvocato non complica la vita al cittadino. Già gli italiani, secondo i moniti delle associazioni dei consumatori, sono a strarischio indebitamento. Non sapevamo indebitarci fino a qualche anno fa, adesso invece da diversi anni a questa parte abbiamo scoperto tutti i rischi, ma anche le virtù del credito al consumo. Non era meglio pensare a forme di rateizzazione dei pagamenti nei vostri confronti che non coinvolgesse anche una finanziaria? È come dire, da quello che io percepisco, se il cliente non paga, a questo punto l'avvocato se ne frega e se la vede la finanziaria. Ma guardi, intanto non è l'unico mezzo a cui può accedere la clientela, nel senso che è una delle tante possibilità che noi mettiamo a disposizione. È ovvio che naturalmente ogni singolo professionista potrà valutare col singolo cliente se rateizzare, svolgere attività diverse, attendere pagamenti differiti. Tra le altre cose possibili c'è anche questo. Tenga conto però di un altro particolare che non mi pare indifferente, e cioè lei deve sapere che fino a un certo livello di reddito, diciamo circa 10.000 euro all'anno, è possibile accedere al cosiddetto gratuito patrocinio. Certo. Esatto. Quindi la clientela a cui noi abbiamo pensato per questo tipo di possibilità non è certamente una clientela di basso reddito, o comunque non è una clientela che proprio in ragione della struttura del territorio dove noi operiamo è una clientela che fa dell'anticipazione delle attività bancarie dei fidi anche una, come dire, un particolare modalità di lavoro comunque. Quindi diciamo così che potrebbe essere un sostegno solo temporaneo, si auspica, certo, che non possa durare nel lungo periodo, una prassi, certo, che vuole essere assolutamente temporanea. Assolutamente, e comunque non l'unica. Ripeto, sempre per i colleghi, per quanto riguarda il gratuito patrocinio, invece noi abbiamo operato per ottenere, sempre convenzionandoci con un istituto bancario, le anticipazioni sulle fatture che dovrebbe pagare lo Stato. Quindi, voglio dire, questa iniziativa non è una iniziativa fine a se stessa, fa parte di una serie di iniziative che noi abbiamo tentato di mettere in piedi per coprire tutto il range delle, anche perché adesso, infatti, comunque, date anche le difficoltà economiche, lei citava le piccole e medie imprese, i contenziosi, certo, aperti con fornitori, magari anche con le banche, sono tanti, l'assistenza legale in certi casi è imprescindibile, per cui, avvocato, io la ringrazio per adesso, le auguro buon lavoro, ovviamente. Grazie. State partendo, quindi l'iniziativa è solo abbozzata e cercheremo di capire nei prossimi mesi come sta andando. Noi speriamo naturalmente che ci sia il minor numero di persone possibili che ne avrà bisogno. Buona giornata, certo, avvocato Villa, a presto. Grazie, buona giornata anche a lei. Alessandro, eccoci. Allora, oggi Salvadanaio, mamma mia, sto malissimo in questo momento. Va bene. No, se ci arrivi, benissimo. Salvadanaio, di se che ci arrivo a Salvadanaio, oggi parliamo degli obbligazionisti General Motors, ce ne sono almeno 10.000 in Italia, entro il 30 novembre devono insinuarsi al passivo della società. Cosa vorrà dire? Oggi li guideremo in questa giungla. Allora, noi ripartiamo tra poco dal nostro sondaggio che è già online, state votando tantissimi e la questione è questa: c'è un no Berlusconi Day per il 5 dicembre, organizzato dalla rete, una mobilitazione, più di 300.000 adesioni, al che i berlusconiani, alcuni hanno detto, noi facciamo il sì Berlusconi Day. Voi andreste da che parte? Al no Berlusconi Day, al sì Berlusconi Day, a Livigno a sciare, come ci ha scritto un ascoltatore, cioè da nessuna di queste due piazze? Esatto, però, come dire un po', anche no? Anche no, il 50% andrebbe al no B, il 25% al sì B, il 25 se ne starebbe a caso a Livigno a sciare. Io me ne torno in redazione nel frattempo, ti saluto. Però votate su Radio24.it, chiamateci se volete, 800 24 00 24. Se la maggioranza non dimostra compattezza si torna alle urne. Il presidente del Senato Schifani evoca elezioni anticipate, manda un messaggio anche al presidente della Camera Fini. Camera che oggi vota la fiducia posta dal governo al decreto Ronchi sulla liberalizzazione dei servizi pubblici locali. Lo scontro politico è sulla possibilità di privatizzare anche la gestione dell'acqua, che rimane comunque un bene pubblico. Sul piede di guerra sono le opposizioni, ma è critica anche la Lega. E oggi in Brasile potrebbe essere il giorno della parola definitiva sul caso Battisti, l'ex militante dei proletari armati per il comunismo, condannato in Italia a 4 ergastoli, per il quale il nostro paese chiede l'estradizione. Il Supremo Tribunale Federale dovrebbe pronunciarsi probabilmente proprio per l'estradizione. E infine per il calcio, l'Italia Under 21 batte 4-0 il Lussemburgo e rimane così in corsa per gli europei. Stasera invece la nazionale maggiore di Lippi sfida a Cesena in amichevole la Svezia. E allora le 8:34 minuti, siamo pronti per il nostro sondaggio quotidiano. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Allora, il 5 dicembre Roma pare che si animerà di manifestazioni. C'è il No Berlusconi Day, partito dalla base, dalla rete, da Facebook, da insomma persone comuni, da blogger che hanno detto andiamo in piazza perché dobbiamo chiedere le dimissioni del Premier. E allora c'è chi ha detto, e allora noi sapete che vi facciamo? Noi facciamo il sì Berlusconi Day, lo stesso giorno a Roma. Voi dove andreste? Vi diamo queste tre possibilità: al no Berlusconi Day, al sì Berlusconi Day oppure nessuna delle due manifestazioni. Già qualcosa è successo a livello politico, cioè che PD e Italia dei Valori stanno un po' litigando. Di Pietro dice venite, venite voi del PD, e il PD Bersani dice noi non ci facciamo dare lezioni da nessuno. Allora io partirei da Franca Corradini, che saluto, buongiorno. Buongiorno. Lei è direttore amministrativo dell'Istituto d'Arte Piero della Francesca di Arezzo. Ma esatto, lei è anche una dei 5 blogger da cui è partito tutto e si è arrivati a, credo, a 300.000 adesioni, e chissà se, se si finisce qui. Credo per voi di no, insomma. Penso proprio di no. Pensa di no. Cioè, in maniera vertiginosa. Che vi siete messi in testa? Di fare una cosa dal basso, a dire no B Day, B sta per Berlusconi, d'ora in poi dirò B sta per Berlusconi. Okay, va bene. Ci siamo messi in testa che non ci sentivamo degnamente rappresentati da un presidente che nega l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, oltraggia all'etica pubblica, antepone i propri interessi, calpesta la libertà di informazione e attacca la Costituzione. Accidenti. Se mi consente vorrei fare un piccolo passo indietro, perché di questa follia, molti definiscono una follia, una cosa partita quasi per scherzo, ma forse scherzo non è la parola giusta, perché in qualche modo, in particolare io e San Precario, che poi è l'anima del No Berlusconi Dave, che è stato lui che ci ha chiamato a raccolta, noi cinque blogger, c'è una conoscenza precedente in occasione del No Gemini Day. Da quest'estate, sulla questione dei precari della scuola che rimanevano senza lavoro dal primo di settembre. Ah, è partito da lì, diciamo, dall'esperienza del No Gemini Day. È stato, diciamo, un banco di prova involontario, nel senso che in cinque giorni abbiamo dato l'annuncio il primo di settembre del No Gemini Day, appunto sulla stregua di tutte le proteste che in tutta Italia c'erano per il discorso precari, e in cinque giorni abbiamo mobilitato tutta l'Italia. Quindi in qualche modo questo ci ha dato forza e la convinzione che potevamo provare. Fare questo No B Day. Beh, insomma, per ora 300.000 adesioni, oggi leggevo su Repubblica, si è messa in moto tutta una macchina, magari non siete neanche organizzati, insomma, per una macchina, per proporzioni che così stanno magari sfuggendo anche alle vostre più rosee aspettative. Però che cosa succede? Che voi avete organizzato questo No B Day, rimanga con noi ovviamente Franca Corradini. Io voglio salutare due esponenti politici, Giorgio Stracquadagno, che ritrovo con piacere, onorevole del Popolo della Libertà, buongiorno Stracquadagno. Buongiorno a lei, ai suoi ospiti e ai nostri ascoltatori. Saluto anche Sonia Alfano, europarlamentare d'Italia dei Valori. Buongiorno Sonia Alfano. Buongiorno. Voglio dire, l'Italia dei Valori ha aderito, Di Pietro ha detto noi aderiamo a questa manifestazione. Allora, il No B Day, 300.000 adesioni, Stracquadagno, lei con l'onorevole Valducci è identificato come colui che ha detto e noi con i circoli della libertà vi facciamo il Sì B Day, e così vediamo un po'. Sì, in realtà sono i circoli della libertà che hanno detto diamoci una mossa e organizziamo qualcosa, e così nello stesso, come dire, con lo stesso spontaneismo con cui è nata la manifestazione No B Day, è nato il Sì B Day, perché il confronto sulla rete è vivace e può essere un confronto vivace anche nella piazza di Roma, così da rendere visibile e reale quello che è reale nel virtuale. Sa cosa scrive oggi il Riformista, che la cita insieme a Valducci? Forse non ha avuto ancora modo di leggere il giornale. Scrive questo: ma cosa vogliono quelli del No B Day? È incredibile, capita proprio questa manifestazione mentre il Cavaliere minaccia di disarcionarsi da solo. Cioè, che cosa vogliono quelli della piazza? Far cadere il governo? Allora manifestino pure con Valducci e Stracquadagno, cioè lei, che vogliono la stessa cosa sostanzialmente. Noi vorremmo far cadere il governo? No, nel senso, lei è definito come uno dei falchi, non so se... Noi vogliamo evitare che il governo sia insidiato da chi vuole abbattere la sovranità popolare a colpi di inchieste giudiziarie. Sa che si dice elezioni anticipate, no? Questa l'avrà sentita anche lei. Lei è identificato come uno dei falchi cosiddetti, non so se c'ha il becco, le ali dei falchi berlusconiani e quindi... Ma guarda, io sono una persona molto mite e di questo periodo paragoni di genere mi sembrano fuori di luogo. Io sono solo dell'opinione che 2 anni fa gli italiani hanno tributato un consenso popolare senza precedenti a Silvio Berlusconi, e chiunque oggi con mezzi leciti e soprattutto illeciti, come abbiamo scritto al nostro appello, cerca di ribaltare ancora una volta la volontà degli elettori, come è avvenuto nel 94, attraverso l'uso politico della giustizia, sta commettendo un attentato alla Costituzione. E noi vogliamo contrapporci a questo attentato alla Costituzione. Allora, io, Sonia Alfano, Italia dei Valori, sarà in piazza, lei sarà, immagino, in piazza, però c'è da dire che, insomma, questo litigio, lo stesso articolo del Riformista che ho citato per Stracquadagno, in realtà è piopo su Italia dei Valori e PD, ma insomma, cioè, come dire, siamo alla solita lite a sinistra sulla piazza, anticavaliere. Alfano. Ma io spero. Intanto un plauso, un ringraziamento alla dottoressa Corradini e agli altri blogger che hanno sentito l'esigenza di porre in essere una manifestazione del genere, essendo anche una che vive sulla rete, anche essendo anche una che vive attraverso i blog, ha registrato ampiamente, mi ero già iscritta al No Gemini Day, al Nobi Day eccetera, quindi ben vengano tutte queste manifestazioni da parte della società civile, perché significa che ancora c'è una gran parte dell'Italia che è viva e che sente la necessità di esprimersi. Per quanto riguarda il confronto tra noi e il PD, ma io credo che il PD rischi di perdere tantissima credibilità nel non esserci, lo dimostra anche il fatto che molti esponenti della classe dirigente del PD hanno chiesto a Bersani di rivedere la propria decisione. È ovvio che una loro non presenza e anche un atteggiamento, se vogliamo così, di spocchiosità nei confronti di chi scende in piazza, anche il momento in cui Bersani dice noi non abbiamo bisogno di lezioni di anti-berlusconismo da parte di nessuno, ecco, io credo che si stiano facendo del male da soli, e Di Pietro ha cercato di fargli capire che questo purtroppo gli farà perdere terreni, gli farà perdere consensi che ovviamente verranno a noi, su questo non c'è dubbio, però siccome noi abbiamo a cuore non solo la possibilità di costituire una opposizione ancora più forte, ma soprattutto di andare verso una sana e valida alternativa di governo, e questo non lo si può fare da soli, ovvio. Allora l'obiettivo è quello di rendere forte un'opposizione, ma un'opposizione forte deve obbligatoriamente mettersi in prima linea accanto a queste persone, accanto alla sua. Quindi il suo invito è chiaro, cioè il PD scende in piazza, altrimenti perde consensi, anche se il PD poi si sa, io lo ripeto, ieri Iena era molto efficace sulla stampa, non andranno ma anche sì, o andranno ma anche no, insomma poi si vedrà. Detto che al momento il 57% andrebbe al No Bid Day nel nostro sondaggio, il 21% al Sì Bid Day, il 21% andrebbe da qualsiasi altra parte. Vorrei tornare un attimo, Franca Corradini, qui c'è Giorgio Stracquadagno, il Sì Bid Day, lei è il No Bid Day, temete questa contromanifestazione? Assolutamente no, è una notizia che probabilmente non piacerà al rappresentante del PDL. Questo movimento, proprio perché è nato dal basso ed è trasversale, è costituito anche da gente che ha votato Berlusconi. In particolare, e questa è una... E come fate a saperlo? Vi scrivono... Assolutamente, lo so, perché io ho votato Berlusconi. Ho votato Berlusconi. Questo è uno scoop che vi do, che dice non ho ancora dichiarato. E quindi molti altri coordinatori locali sono appunto persone che hanno votato Berlusconi. Stracquadagno, ha sentito, ci sono i pentiti di Berlusconi. Guardi, la prima considerazione che vorrei fare è che questo No Bid Day mi pare un No Bersani Day, cioè l'attacco principale che viene rivolto nei confronti del segretario del PD. Ha copiato il titolo del Riformista, quello dell'articolo. Ho copiato il titolo del Riformista. Sì, l'avevo Di letto. Pietro lancia il No B Bersani Day. Ecco, non l'avevo letto, ha visto. Evidentemente ci deve essere, come dire, è così esplicito che l'attacco principale Di Pietro lo rivolge al suo alleato per metterlo in difficoltà. Però la Corradini ci ha detto che ci sono dei pentiti di Berlusconi che dicono andranno in piazza. A loro piacciono questi linguaggi giudiziari, pentiti, manette, arresti, giustizia. Io penso che in democrazia ci sia la valutazione degli elettori che decidono come votare. Registro soltanto che tutti i sondaggi di tutti gli istituti dicono che Berlusconi ha un consenso superiore al 60%. E anche il vostro televoto può dare tutti i risultati che vuole, ma, sì, non mi preoccupa. Sondaggio. Un radio voto non rappresenta gli umori della popolazione. Va bene. Vediamo se il primo ascoltatore, poi ce ne sono altri dopo il traffico. Maila, ascoltatrice da Prato, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei dove andrebbe? Io per spirito mio non andrei in piazza perché non sono portata a certe cose, però io andrei per Berlusconi perché per me è una persona fantastica. Purtroppo è demonizzata, purtroppo è iniziata una caccia alle streghe incomprensibile, perché poi è tutta invidia che muove l'animo della gente. E purtroppo, anche se ci sarà poi un sondaggio in piazza, senz'altro può anche darsi che le sinistre siano di più quelle per il No Day, no Berlusconi, perché chiaramente le sinistre sono abituate a piazzare. Oddio, non voglio già pensare. Molta gente di destra queste cose non le fa e non ama andare in piazza. Io sono o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora andreste al no Berlusconi Day, per ora il 59%, al sì Berlusconi Day il 21% o da nessuna parte, che per ora è il 20%. Prima di tornare da Sonia Alfano, Alessio dalla provincia di Pescara, lei dove andrebbe, che fa? 5 dicembre. Buongiorno, ma io andrei sicuramente al no Berlusconi Day, ci andrò costi quel che costi, per, anche a piedi. Voglio dire due cose. La prima è che la contromanifestazione del PDL è una cosa assolutamente diversa. Il no Berlusconi Day è nato dalla gente comune, da cittadini comuni. La contromanifestazione del PDL è nata dai circoli, come è stato detto anche poc'anzi dall'esponente, quindi è una cosa da una genesi ben diversa. Io ho purtroppo la tessera del PD fatta recentissimamente, andrò domani ad annullarla nel circolo dove mi sono iscritto, perché è scandaloso che un partito che vuole essere il maggior partito dell'opposizione a Berlusconi non partecipi con ferma adesione, come invece fa Di Pietro, a questa manifestazione che è contro Berlusconi. Cioè, ha fatto l'iscrizione più rapida del mondo, insomma, sei iscritto. Esatto, l'ho fatta proprio tra l'altro l'ho fatta perché contavo di votare per Beppe Grillo, perché si voleva candidare, poi non l'hanno boicottato, non l'hanno fatto entrare Beppe Grillo come candidato. Sì, lei ha le idee un po' confuse, cioè Beppe Grillo, il PD, però forse tutta materia e un voto forse che andrà all'Italia dei Valori di Sonia Alfano, forse sarà contenta. Ma Alfano, le ho già chiesto la vicenda PD Italia dei Valori, invece mi dica perché lei andrà in piazza al No Big Day, insomma il motivo per cui è giusto secondo lei manifestare contro, per le dimissioni del Premier. Ma guardi, io ringrazio l'ascoltatore di poco fa, non perché ha detto che verrà, ma perché ha sottolineato una cosa straordinaria. E cioè l'evento del 5 dicembre al quale noi partecipiamo, non nessuno metterà il cappello perché ben venga un'iniziativa del genere. Ecco, l'iniziativa del 5 è nata da cittadini attivi, a loro si sono opposti, non cittadini attivi senza una tessera di partito, comunque si sono opposti i circoli del PDL, quindi una manifestazione di partito. Questa è la cosa straordinaria che va messa in evidenza. Io mi preoccupo della scarsa sensibilità da parte del collega del PDL quando dice questa gente chiama la giustizia. Ma certo chiamiamo la giustizia, è ovvio, io sarò lì perché sostanzialmente… Ha detto le manette e la giustizia. Chi ama la giustizia, se qualcuno compie un reato… L'articolo 3 è ancora in piedi della nostra Costituzione, il primo comma dice che tutti sono uguali davanti alla legge, finché quello sta in piedi, se qualcuno compie un reato, se quel qualcuno verrà poi giudicato, e allora sì che devono scattare le manette. Il punto è proprio questo, bisogna scendere in piazza, io ci sarò, perché non si può assistere al costante tentativo di demolire la nostra Costituzione, al costante perpetrare reati ed essere, come dire, sempre là davanti alle telecamere e dire tanto io delinquo, io corrompo, io rubo ai poveri per dare ai ricchi, io faccio quello che voglio, io conduco una vita assolutamente discutibile e tanto nessuno mi può giudicare perché io sono Berlusconi. Onorevole, a questo ne stiamo dicendo. Onorevole Straquadagna, a questo dicono no, e l'opposizione che fanno sia Alfano che l'ascoltatore a dire no, da una manifestazione diciamo popolare nata dalla rete si oppone una manifestazione partitica, insomma i circoli della libertà, poi presa in mano anche coordinata da voi. Ho detto che è partitica. Vede, i circoli della libertà, insomma. Mi perdoni, i circoli della libertà non sono i circoli del PDL, che non ha circoli, sono un'organizzazione di cittadini che sostiene la leadership di Silvio Berlusconi. Si riconosceranno al PDL. La cosa stupefacente di questi amici che hanno parlato oggi è che loro sono i cittadini veri e noi invece siamo i cittadini reggimentati. Cioè la loro visione è sempre manichea e, come dire, un po' triviale, cioè con un certo disprezzo delle persone che non la pensano come loro. Mentre siccome noi siamo convinti, e lo dimostrano tutti i dati elettorali da 15 anni a questa parte, che la maggioranza degli italiani sta con Silvio Berlusconi, perché anche quando abbiamo perso le elezioni le abbiamo perse sul filo di lana in un modo, come dire, non neanche tanto sicuro, parlo del 2006, contro un'alleanza che andava da Di Pietro a Mastella, cioè dal carcerato al carceriere, o viceversa, dal carceriere al carcerato meglio. Noi, io sono stupito quando si parla, no, di cittadini attivi e così via, e come sempre piazze piene urne vuote, si diceva un tempo. Ecco, è perché questa spocchia della sinistra di voler rappresentare una super, o dei dipietristi di voler rappresentare la superiorità morale ha da finire e deve finire per la semplice ragione che gli italiani non sono come loro e li rifiutano, perché gli italiani amano la libertà, non più, le manette. Più di un ascoltatore, prima di un ascoltatore, l'ultimo, stai attento che Mastella però adesso sta con la PDL, insomma, giusto per straquadagno. Straquadagno. Sì, sa perché? Perché ha capito come erano fatti. Hanno fatto cadere quel governo con un'azione giudiziaria di quel De Magistris che oggi il nuovo, come dire, leader emergente del partito dei manettari, quello della signora Alfano. Stefano dalla provincia di Roma, buongiorno. Lei che dice? Io dico che sono un po' arrabbiato con Antonio Di Pietro perché il 5 dicembre sono ad un convegno medico e quindi non potrò andare. Che c'entra essere arrabbiato con Di Pietro? Perché voleva fare il 6 dicembre. Ma no, ma non è organizzata, ecco, vede, non è organizzata da Di Pietro e l'Italia dei Valori ha aderito, ma è organizzata dalla rete, da Franca Corradini, che è con noi e altri blogger, così, e hanno deciso loro il 5 dicembre. Se la prenda con Franca Corradini che l'ascolta, ma comunque lei vuol dire che andrebbe in piazza, insomma, Stefano. Allora, detto questo, diciamo, io comincio ad avere qualche annetto, però la manifestazione sulla libertà di stampa me la sono fatta volentieri e comunque sicuramente cercherò di non mancare alla manifestazione del B-Day, perché voglio vedere in faccia la gente che vota Berlusconi, perché e come fa? Se è un chiedendo ai miei conoscenti e ai miei amici. Ma come fa Stefano? È sempre è lo stesso giorno, se non può andare a quella del lo stesso giorno. Certo. Stefano, è certo, l'hanno fatta lo stesso giorno per contrastarla, mannaggia Stefano. Lei vada al convegno medico, va, che magari starà un po' più attento lì. Vi ringrazio, vi devo salutare. Franca Corradini, una dei 5 blogger promotori del Nobi Day, Giorgio Straquadagno del Popolo della Libertà e Sonia Alfano, eurodeputata Italia dei Valori. Continuate a votare per ora. Sguardo, vediamo chi andrebbe al Nobi Day, il 61%, chi andrebbe al Sibi Day, il 20%, chi andrebbe a casa propria o chissà dove, a convegni medici magari, il 19%. Grazie Laura Marchesi in redazione, Peter Bescapè in regia. Do la linea a Oscar Giannino e noi ci sentiamo domattina.